tempo dove a noi saremo insieme con G-Pai. Fidati di mamma, lei sa bene quanto voglio bene con G-Pai. Quanti giochi ancora vuoi? Oh, ma in cambio con G-Pai lasciati collare fino a quando non sarai più grande. Lasciami tornare nei tuoi sogni mentre sei distante con G-Pai. Milioni di stelle, domande farei, ma quante risposte che ancora vorrai, lanciando i pianeti per aria tirai, non voglio divieti né ora né mai. A milioni di donne il tuo nome dirai, ma quante di quelle l'amore darai. Con G-Pai ogni rosa un posto a noi, dovremo un giorno con G-Pai. Lasciami pensare che mi stai cercando per giocare coi cowboy. Coi cowboy. Manca poco al giorno.